il vantaggio è questo. Dunque, tutta la letteratura che ho letto su internet, c'era il problema della schermata grafica, questa videata che era difficile da comporre. Naturalmente esiste un font Braille, ma il problema è che non ne esiste uno solo, ne esistono milioni. Milioni di font che sono compatibili in alcuni computer e in alcuni no. Quindi non c'è uno standard come, che so, Times, Helvetica, che già viene prodotto dal produttore, dal system che viene dato. Non ha, diciamo, questa caratteristica nessun computer. E quindi esiste il font, io l'ho provato a fare nella pagina HTML, si legge benissimo, però se io non ho quel font, quel nome particolare di font, non riesco a leggere la pagina e vedrò dei geroglifici. Dopo 6 anni di studio e di lavoro, e avevo abbandonato l'idea, in 6 secondi, diciamo, mi è venuta l'idea e l'ho risolta, diciamo così. Poi ho scoperto anche che tutti parlano di accessibilità. Accessibilità, però, è una cosa abbastanza complicata, l'accessibilità, perché i siti più belli che ho visto di accessibilità, il non vedente è nei guai, perché ho sperimentato questa storia con un dottore in fisica che era vedente prima che si laureasse, è diventato un mese prima della laurea non vedente e mi ha fatto capire tutti i problemi. Abbiamo lavorato sodo. Per prima cosa parte la voce, che è un unico testo che va a capo perché si chiude il monitor, ma non va mai a capo fino a che non trova il punto. E trovato il punto va in un'altra pagina, proprio per evitare che loro vengano appesantiti, diciamo, da una serie di notizie che vanno troppo veloci. Subito dopo ho creato le 40 battute della tastiera Braille, che è quella più usata, a 40 battute, in modo che chi ha una tastiera Braille la legge direttamente senza aspettare che converta tutto il testo, che non finisce mai, perché hanno questi problemi, hanno i problemi dei tempi che sono infiniti. E poi c'è anche un terzo link, e il sito che ho creato è tutto solo esclusivamente testo, senza immagini. Il terzo link che gli dice: se vuoi stampare questa pagina, vai a stampare. Come la stampa? La deve stampare per forza col vecchio sistema, che deve convertire, e avranno grossi problemi. E qua propongo alle case editrici, alle case costruttrici di stampanti, di creare una stampantina diretta, così come ce l'abbiamo noi a getto d'inchiostro. Loro possono benissimo mettere una matrice sollevata e la stampa direttamente, non hanno più il grosso problema della conversione, è un'immagine. In pratica, anche se è solo testo, è un pallino, però diventa un'immagine su internet.